M3. Non mi piacciono i compleanni, non mi piacciono i compleanni, non mi piacciono i compleanni. Il signore del tempo mi guarda e sorride, col suo ghigno onnipotente mi deride. Un altro compleanno e il tempo si accorcia ancora. Vorrei tanto sapere quando scoccherà la mia ora. Lo rincorro tutti i giorni ma non riesco a afferrarlo, non riesco neanche a vederlo, posso solo immaginarlo. Si beffa di me e mi toglie la dignità e aggiunge cifre alla mia età. E le ferite di questa lotta le vedi sui volti, ti lascia cicatrici e profondi solchi, e tutti indaffarati a coprirne i segni. Ma non puoi sconfiggere il tempo e i suoi disegni. Disdegni diventare vecchio e morire, puoi cercare di impedirlo, non ci puoi riuscire. Uscire dall'incubo e cercare di fuggire, agire come chi nelle sabbie immobili vuole reagire. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. Dal nostro punto di vista un anno e più, dal mio un anno e meno che non tornerà più. È passato un altro anno senza ottenere ciò che voglio. È un altro fallimento, ferita nel mio orgoglio. Chissà se una vita basterà, chissà alla fine chi vincerà. La lancetta corre, non ha pietà, e di sicuro non mi aspetterà. Lo so che il tempo non esiste, ma tutto cambia e a volte è triste. Invecchierò, poi morirò, partirò e non tornerò. E non ci sarà un cazzo da festeggiare, fino a quando non riuscirò a realizzare i miei sogni e i miei obiettivi, e io ci credo. Fino a quel giorno io lotto e non cedo. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. Non mi sono mai piaciuti i compleanni, non capisco perché festeggia chi compie gli anni. È un anno e più e ancora meno tempo, un altro passo verso la morte che io riempio con la consapevolezza che la candela brucia, con la speranza che il mio corpo sia solo buccia, che quello che c'è sotto vada avanti in eterno. Ma senza Dio paradiso è inferno. Io so che il viaggio è di sola andata, e che una candelina in più vuol dire vita accorciata, che non bisogna sprecare neanche una giornata, che ogni occasione persa non ritorna è andata. Non ho scelto io di salire su questo volo, il posto me l'hanno assegnato ed è in corridoio. Ma io cambierò e andrò al finestrino, vedrò le nuvole dal lato e cambierò il mio destino. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. La vita brucia più veloce di quelle candele. Se non puoi soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi in questo gioco crudele. Come correre su un filo senza vedere. Io non festeggio il giorno in cui sono nato, io festeggerò quando sarò diventato ciò che voglio essere, ciò per cui sono nato. Il giorno in cui mi sarò realizzato. E l'età in fondo non c'entra niente, ciò che vivi e ciò che pensi conta veramente. È il vero amore non ha età, e a volte i bambini hanno la verità. Non conta quanto hai vissuto ma per cosa, non conta quanto hai pianto ma per cosa, non conta quel numero sulla carta d'identità. Ma se la tua vita è stata fantastica, non guardare l'orologio, il cuore batte al suo ritmo. Non puoi cambiare i parametri del suo algoritmo, devi adattarti a lui come a quel contenitore. Devi ascoltarlo sempre, è il tuo allenatore. La vita brucia più veloce di quelle candele. Soffiarci sopra, puoi solo cadere. Nasci e ti ritrovi sorridi.